известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta. Di Stefano Pistolini. Podemos informar después que al término de toda la reunión el presidente Barack Obama volvió a acercarse nuevamente al presidente Hugo Chávez, lo tomó nuevamente por el hombro y le dijo bye bye my friend, que quiere decir adiós mi amigo. Adiós mi amigo, bye bye my friend. Queste sono le parole che la televisione di Stato venezuelana, la Venezolana de Televisión, scusate la pronuncia veramente vergognosa, ha registrato in coda informalmente nei saluti finali, ha registrato comunque tra Barack Obama e il presidente del Venezuela Hugo Chavez, dando naturalmente immediato estremo rilievo alla questione e facendo sollevare molte sopracciglia in giro per il mondo. Com'è possibile che al termine di un appuntamento così delicato, controverso, carico di intenzioni ma anche carico di questioni da risolvere, di disaccordi, di vecchie ruggini, di lavori non dico in corso ma addirittura da cominciare, com'è possibile che Barack Obama abbia rotto protocollo, abbia rotto anche il ghiaccio insomma, e sia andato da Chavez dopo che fra i due c'erano stati reiterati contatti a dispetto delle premesse, no? Si diceva no, Obama e Chavez non si guarderanno neanche negli occhi, poi invece le personalità sono andate sopra il protocollo, fra i due ci sono stati ripetuti contatti e pare anche una corrente di simpatia, perlomeno personale, umana, tant'è vero che Obama alla fine è andato lì e gli ha dato una pacca sulla spalla e gli ha detto adios mio amico, bye bye my friend, e tutto il mondo ha un po' vibrato, perché questa è una primavera, ci verrebbe da dire, di febbrile attività diplomatica. In tutti gli angoli del pianeta si muovono iniziative, di solito poi iniziative ecumeniche, ampie, come appunto il vertice dell'America, siamo reduci da un G20, altri vari G già si intravedono in fondo alla strada, è in scena a Ginevra qualcosa che forse diplomatico non ha molto, anzi probabilmente non ha molto neanche di dibattito, ma qualcosa che comunque si è appena aperto, ovvero il Durban 2, la conferenza dell'ONU, le Nazioni Unite sul razzismo e la xenofobia. Adesso ve ne daremo qualche cronaca degli ultimi momenti, perché ne stanno succedendo di tutti i colori, per fortuna, no? Come dire, qualcosa a cui attaccarsi, stiamo naturalmente scherzando perché non sapremo altrimenti come annunciarlo, ma insomma l'avvento di Barack Obama, che tanto ha destabilizzato gli scenari mondiali, ce n'è uno che non l'ha destabilizzato per niente e si chiama Al-Zawahiri. Ha aspettato qualche giorno Al-Zawahiri in compagnia, se ancora lo è, perché poi tutto naviga, no, nel mistero, se non nella leggenda, comunque, di Osama bin Laden, di cui Zawahiri dovrebbe essere il braccio destro, nonché il numero due di Al-Qaeda, poi ha detto la propria su Barack Obama, e in questo caso non si tratta di una comunicazione diplomatica, anzi tutt'altro. È arrivato un nuovo video consegnato da Al-Zawahiri, che recita che il nuovo presidente Obama non avrebbe, secondo lui, per niente cambiato l'immagine dell'America nei confronti dei musulmani e degli oppressi. Secondo lui l'America di Obama è l'America che continua a uccidere i musulmani in Palestina, in Iraq, in Afghanistan, è l'America che ruba i loro averi, occupa le loro terre e sostiene il furto, la corruzione e i dirigenti traditori nei loro paesi. Di conseguenza il problema non è risolto, sembra anzi deteriorarsi e peggiorare, ha detto Al-Zawahiri, a cui evidentemente Obama gli piace ancora meno che George W. Bush. Veniamo invece a dirvi qualcosa su questo vertice di Ginevra. Si chiama Durban 2 per un motivo che ci lascia perlomeno perplessi, ma questo non ha nessuna importanza. Si chiama Durban 2 perché il primo si svolse a Durban nel 2001. Durban, città, grossa città del Sudafrica, per cui adesso si svolge a Ginevra ma si chiama Durban 2 e questo vi basti, non so dove andare a parare in questa direzione. Comunque la questione è provare a mandare in orbita una conferenza dell'ONU sul tema del razzismo, ed ecco che la conferenza dell'ONU sul tema del razzismo diventa occasione per razzismi di ogni genere, per distinguo, per precisazioni, per dinieghi, per ritiri, per boicottaggi, per insulti, e alla fine mi sembra per una gran litigata generale con contorno di clown dalle parrucche colorate. Vorrei sottolineare che l'iniziativa, forse animata di buone intenzioni, sicuramente connotata da uno slancio programmatico tutt'altro che chiaro, e credo che questo sia anche un po' all'origine dei problemi, cioè se l'ONU, che già è insomma un'organizzazione che spesso ha problemi di chiarezza, no, nel far intendere le direzioni che intende prendere, ma mette in scena un evento di questo genere senza chiarire con esattezza dove vuole andare a parare, e più che altro sembra andando a caccia, no, di dichiarazioni di occasione, il risultato è questo, che all'apertura dei lavori arriva Mahmoud Ahmadinejad, comincia a spararne di formidabili, e i pochi che ancora avevano aderito, i non molti che ancora avevano aderito all'evento, si alzano e se ne vanno. Già non c'erano Stati Uniti, Italia, Germania, Polonia, Australia, Canada, Olanda, Nuova Zelanda, Israele e molti altri si sono alzati poco fa, quando il capo di Stato iraniano ha preso la parola davanti ai delegati e ha cominciato a attaccare Israele, anche senza nominarlo direttamente. Ha detto, ha accusato gli stati occidentali di essere rimasti in silenzio di fronte ai crimini commessi da Israele a Gaza, ha parlato di un governo razzista, ha detto: dopo la fine della seconda guerra mondiale gli alleati sono ricorsi all'aggressione militare per privare della terra un'intera nazione, sotto il pretesto della sofferenza degli ebrei hanno inviato immigrati dall'Europa, dagli Stati Uniti e dal mondo dell'Olocausto per stabilire un governo razzista nella Palestina occupata. A questo punto si sono alzati molti rappresentanti, credo tutti i rappresentanti dei governi europei. Mi sembra che la situazione sia completamente caotica in questo momento al vertice di Ginevra. Come vi ho detto, gli italiani alla fine hanno deciso già da qualche giorno di non andare. Tra l'altro, sul no del governo italiano ci sono state parecchie dichiarazioni ancora oggi, ha parlato Cicchitto, del presidente dei deputati, secondo il quale la bozza del documento finale della conferenza di Durban 2 rimane caratterizzata da forti elementi di antisemitismo. Ci immaginiamo poi quale sarà la concreta gestione della conferenza, e su toni non molto diversi si è espresso Barack Obama. Ha detto che nella bozza di dichiarazione finale è rimasto in sospensione un linguaggio ipocrita e controproducente, eccolo qua, su Israele. Credo nelle Nazioni Unite, ha detto Obama, ho ribadito al segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon che siamo felici di aiutare le Nazioni Unite, ma questa volta non è risultata l'opportunità giusta. Va bene, di tutte queste cose approfondiamo tra qualche istante, perché i minuti passano, come abbiamo detto ci sono diplomazie in movimento in diversi angoli del pianeta. Sauntered to the ring with a sheet. on. But the late round scared the girl. Heaven knows she thought the world of Lou. It was hard to see him swaying in the neon. Joey was a no one, just some big dumb kid from Flushing. He had a face like an ugly bull, always pouting. He hit Louis kind of low as he stumbled on the ropes. Arriva ora l'agenzia che Israele deplora il faccia a faccia tra il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon e il presidente dell'Iran Mahmoud Ahmadinejad a margine della conferenza di Ginevra sul razzismo. Deplorevole, dice Israele in una nota del Ministero degli Esteri, deplorevole che il segretario generale dell'ONU abbia creduto bene di incontrare il più grande negazionista di oggi, ovvero Ahmadinejad, il quale è alla testa di un paese membro dell'ONU che invoca la distruzione di un altro paese, Israele, pure membro dell'ONU, nel giorno della commemorazione della Shoah. Quindi, come vedete, la situazione è tutt'altro che serena in questo vertice appena aperto, mi sembra già letteralmente sbriciolato proprio nel nome poi, no, del tema di cui non si riesce neanche a cominciare a discutere. Molti temi quindi sotto osservazione. Abbiamo in linea Alessandro Politi, un amico del nostro programma, ma direttore soprattutto dell'Osservatorio Strategico di Nomisma, esperto di problemi di sicurezza, che tra l'altro presenta, Politi giovedì presenta a Roma il quinto rapporto sulle prospettive economiche strategiche nel mondo. Politi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Ti risparmio la domanda su quello che sta succedendo a Ginevra, perché stanno semplicemente litigando e dandosi del razzismo in un vertice sul razzismo, il che ci fa un po' capire che l'iniziativa, come dire, abbia forse un vizio di forma, un vizio di fondo anzi. Che dice? Ma penso che sarebbe opportuno innanzitutto leggersi integralmente il documento dell'ONU, su cui poi ovviamente si negozia, non è, certo. È scritto, diciamo, non sono i 10 comandamenti, certo. E in più poi ogni paese partecipante farebbe bene a fare un atto di coscienza, cioè di vedere quanto realmente collimano gli ideali democratici con quello che poi succede nelle società. E credo che qui, insomma, le democrazie, grazie a Dio, hanno degli anticorpi abbastanza vigili, ma non sempre ascoltati. E poi invece gli stati non democratici farebbero bene a ricordare che l'ONU è un posto che crede e approva, e l'hanno firmata, le dichiarazioni sui diritti universali. E universali non significa semplicemente occidentali, significa il minimo indispensabile per un'esistenza dignitosa. Certo. Quindi questo è il tema di fondo, poi naturalmente ci sono le schermaglie politiche e propagandistiche, e queste si possono poi analizzare alla luce tanto degli orientamenti di lungo periodo quanto delle tattiche politiche del momento. Sì, ma mi sembra che comunque qua già stanno facendo le valigie, quindi direi che l'appuntamento per questa volta è saltato. Ma due sono però le questioni che volevo discutere. La prima è, diciamo, di carattere un po' generale, ma insomma tutto questo gran friggere, no, diplomatico ai quattro angoli del pianeta, mi sembra che poi abbia un filo conduttore, che è Barack Obama. Il cambio di presidenza ha scatenato, no, un desiderio di confrontarsi con il nuovo inquilino della Casa Bianca. Ecco, in riferimento a quello che è appena successo a Port of Spain, il vertice delle Americhe, mi sembra ci sia molta carne al fuoco e anche forse molto cambiamento, come piace tanto dire a Obama, se non domani, insomma, dietro l'angolo. Possiamo fare uno scenario, per esempio, per quello che riguarda Cuba, con questi avanti e indietro, comunque dinamici, interessanti dopo l'avvento di Obama, e quali possono essere, per cominciare, le prospettive da questo punto di vista? Poi, se facciamo in tempo, parliamo di qualcos'altro. Vai. Barack Obama ha cominciato a guardare, come il suo predecessore non ha voluto fare, ai fatti. 50 anni di embargo non hanno reso il popolo cubano più libero. Questo è un punto. e ha avuto anche l'intelligenza politica, oltre che la sportività anglosassone, di riconoscere che Cuba ha fatto tanto in America Latina con i pochi mezzi che aveva, appunto inviando dottori ai quattro angoli, oltre che ai tempi della guerra fredda, rivoluzionari e sovversivi. La somma di tutto questo è: noi non possiamo avere la vecchia interazione con l'America Latina, che questo sì è per ora una dichiarazione politica importante a cui speriamo seguano molti fatti, certo. Anche se in politica tra il dire e il fare, persino certo. Per Obama, insomma, ci sono fatiche certo. Da affrontare. E quindi non basta fare libero commercio, non basta fare interdizione alla droga. Se si fa solo questo, l'influenza, come è misurabile negli ultimi 15 anni, cala inesorabilmente. E qui Obama naturalmente pensa all'interesse nazionale, oltre ai valori del suo paese che vuole reinterpretare in modo più concreto e credibile. Ecco, e questo flirtare con quello che era, come dire, Satana per il precedente inquilino della Casa Bianca, ovvero Chavez, poi anche il cuginetto Morales, sembra che Obama sia andato lì proprio a dire: guardate che io mi comporto altrimenti, insomma ci sono anche queste code informali di pacche sulle spalle, di doni reciproci. Anche qui siamo alla diplomazia e al dire, o ci sarà anche un fare presto in rapporti complicati come questi? Con Morales c'è stata una dichiarazione estremamente chiara che i vecchi metodi degli assassini politici e dei colpi di Stato non sono approvati da questa amministrazione, che è un'altra dichiarazione importante. Con Chavez c'è l'interesse a cambiare i rapporti su un tono più disteso, ma anche poi l'attenzione a quella che è la sostanza del rapporto. E qui, su questo Obama è stato anche molto chiaro, il petrolio è senz'altro un fatto che lega tutti e due i paesi, visto che Chavez ad altri non può venderlo in quantità significative, e poi ci sono le politiche di Chavez, e su questo Obama non è stato affatto distratto come alcuni conservatori negli Stati Uniti lo accusano di voler fare. Dietro le quinte poi c'è un'altra questione molto più di fondo ed è il triangolo Stati Uniti-Messico-Brasile, perché queste sono le grandi potenze dell'America Latina e anche con queste vanno costruiti dei rapporti differenti. Con il Brasile, con Lula... Pronto? Sì, siamo qua, pronti. Sì, con il Brasile e con Lula... Obama sta raccogliendo l'eredità di Bush, che è un'eredità certo. Più positiva di quello che non sembra. Con altri leader latinoamericani si tratta di partire su un piede diverso, il che non significa affatto dimenticare gli interessi del proprio paese, anzi, in questo Obama, diciamo, ha una stella polare molto chiara. Bene, uno scenario in rapido mutamento. Alessandro Politi, presto in studio da noi, allora magari per discutere insieme e anche per approfondire poi questo rapporto sulle prospettive economiche e strategiche nel mondo che presenta in questi giorni. Presidente 44. Obama alla Casa Bianca. Appunto, altro che cori razzisti, vergogna, invece questi fanno l'amore, fanno molto l'amore nel deserto di Indio, in California, dove si è svolto il festival musicale di Coachella, una specie di Woodstock del XXI secolo. Vedo che già ridete dall'altra parte del vetro e fate bene. Pare che insomma si sia a un certo punto creata un'atmosfera estremamente calda, molto rovente dal punto di vista passionale nella platea, mentre c'erano Paul McCartney, Leonard Cohen, gli Smiths, i Cure che suonavano, e sotto, giù nella platea woodstockiana, no, l'insegna del peace and love, pare ne siano successe di tutti i colori, si divertono così. ci interessiamo di questioni interne a questo punto, legate all'avvento dell'amministrazione, il 44esimo presidente Barack Obama, perché stanno cambiando delle cose anche per quello che riguarda la revisione delle condotte, delle scelte, delle autorizzazioni concesse dal suo predecessore George W. Bush. Stiamo parlando di torture o comunque di pratiche altamente costrittive utilizzate dai servizi segreti, non solo da loro, per ottenere informazioni legate naturalmente a attività terroristiche. Come sapete è in discussione, anzi è stata sancita dal presidente Obama, una forma di perdono, di pagina da voltare rapidamente, di comunque abitudini da cambiare altrettanto rapidamente, relative a queste pratiche tortura, ma nel frattempo i dossier che escono fuori aggravano parecchio il quadro. Allora bisogna vedere se il Dipartimento della Giustizia, se la difesa, insomma se tutto ciò riuscirà a reggersi su basi che col passare dei giorni, col passare delle rivelazioni, l'accumularsi delle rivelazioni diventano francamente sempre più imbarazzanti. È di oggi la notizia che la CIA avrebbe infierito con 266 azioni di waterboarding, cioè avrebbe sottoposto per 266 volte, non voglio neanche pensare cosa possa significare una cosa del genere, alla pratica del waterboarding, che per chi ancora non lo sa consiste nel simulare l'annegamento del prigioniero, dell'interrogato. 266 volte solo su due prigionieri in particolare, uno si chiama Abu Zubaydah e 83 volte sottoposto al procedimento senza pare risultati rilevanti, e l'altro è il ben noto Khalid Sheikh Mohammed, numero 3 dell'organizzazione terroristica all'origine dell'attacco l'11 settembre, addirittura per 183 volte sottoposto a questo trattamento, tra l'altro devo dire con una persistenza al di là del più roseo ottimismo. Insomma, se per 100 volte non ha parlato, farglielo 83 volte in più possa veramente servire a qualcosa. Ma comunque c'è molta polemica su questo perdono che riguarderebbe gli agenti, riguarderebbe addirittura i medici coinvolti in questa strana storia. Ci sono rivelazioni di un trattamento duro a cui avrebbero partecipato anche medici, avrebbero partecipato psicologi, avrebbero avuto l'incarico di fornire idee per ricavare informazioni dal prigioniero. Naturalmente protestano le associazioni, c'è un grande movimento attorno, anche di opinione attorno a questa questione. Noi abbiamo consultato e abbiamo in linea Domenico Gallo, magistrato e giurista, che ci può dare una mano prima di tutto a capire un po' meglio questa idea di immunità concessa alla CIA da parte di Barack Obama. Ma prima di tutto salutiamo Domenico Gallo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a lei. È in sostanza uno scordiamoci il passato e promettiamo di non farlo più, e poi Gallo ci si attiene, si riparte da qua, no? Si azzera un po' tutto. Può andare da un punto di vista legale una scelta di questo genere? Beh, indubbiamente non bisogna guardarla come una sorta di perdonismo. Qui dobbiamo tenere presente che c'è un problema molto grave, e che è quella lì del principio della immunità degli atti di sovranità, principio che vige nella massima potenza nell'ordinamento degli Stati Uniti. Mm-hmm. Quindi in base a questo principio il Presidente degli Stati Uniti non può essere in nessun modo perseguito se sgancia una bomba atomica che provoca la morte di 100.000 persone, però può essere sottoposto a procedimenti penali, addirittura a tentativo di destituzione se tradisce la moglie, perché questo certo. Fatto non è un atto di sovranità. Certo. Quindi per quanto riguarda... In sostanza nello svolgimento delle proprie mansioni in realtà non ha limiti né controlli, mentre al di fuori sì. Sì, cioè voglio dire, c'è una concezione molto dura e rigida dell'interesse di Stato. Certo. Ecco. E allora per quanto riguarda le azioni compiute da questi funzionari agenti della CIA sulla base di istruzioni e di ordini direttamente ricevuti dal loro governo, che può sembrare ridicolo, ma è così. È un governo che si sentiva, si sente forse ancora, certo, tecnicamente in guerra. Certo. Quindi si tratta di istruzioni che riguardano il compimento della guerra. Quindi queste istruzioni in qualche modo rientrano nell'esercizio degli atti di sovranità, rispetto ai quali il Presidente non può essere perseguito, ma probabilmente i giudici direbbero neanche quelli che hanno dato esecuzione alla, in modo, diciamo così, formale agli ordini ricevuti potrebbero essere perseguiti. E quindi questo problema c'è ed effettivamente è difficilmente superabile in quell'ordinamento, anche se non esiste in altri ordinamenti, tant'è vero che in Spagna si parla di un procedimento penale che potrebbe coinvolgere addirittura l'ex ministro della giustizia americano Alberto González, certo, e altri grossi personaggi dell'amministrazione Bush proprio per le torture inflitte ai detenuti di Guantanamo, perché fra i tanti detenuti c'erano anche 5 cittadini spagnoli, certo, o 5 certo, persone che risiedevano in Spagna, e quindi il loro trattamento, diciamo così, può essere conosciuto dalla giustizia spagnola. Ecco Carlo, ma per concludere velocemente, questa seconda questione che si sta sollevando nelle ultime ore, anche con una certa intensità da parte di un gruppo che si chiama Medici per i Diritti Umani, un gruppo americano che chiede che tutti i medici e gli psicologi che risultino coinvolti nelle torture dei detenuti debbano perdere la licenza, non debbano più esercitare, insomma, questo allargarsi a macchia d'olio della ricerca di responsabilità, sia pure all'insegna della ragion di Stato, che futuro ha? Beh, bisogna dire che è diverso il discorso, diciamo così, per i medici, perché qui entriamo o altre figure professionali, andiamo nel campo dell'etica professionale, certo, della deontologia, certo. Allora è giusto che queste categorie proteggano la deontologia censurando quei comportamenti che sono deontologicamente inammissibili. Certo. E d'altronde anche in Italia abbiamo visto che c'è stata una delibera dell'Ordine dei Medici che minaccia sanzioni ai medici i quali, aderendo, diciamo così, all'invito della legge, dovessero denunziare i clandestini che si recano in ospedale per ottenere delle cure, perché questo è incompatibile, diciamo così, con la deontologia del medico perseguitare il cliente, ecco. Grazie a Domenico Gallo. Tra l'altro l'affare si ingrossa perché sta sbarcando anche in Inghilterra. Il Times, il quotidiano londinese, fa sapere che 4 appunti del Dipartimento della Giustizia americano che autorizzano interrogatori duri farebbero ora tremare anche agenti segreti britannici corresponsabili e coinvolti in queste attività. È uno scandalo probabilmente destinato a trascinarsi nelle prossime settimane. Stiamo un po' spostando le rubriche, anche i tempi del programma, come vedete le stiamo riadattando. Abbiamo tra l'altro in questi giorni, diciamo, perché sennò sembriamo degli sfaticati, ci sono dei problemi. Dei problemi di comunicazione, di incomunicabilità. Le mail che inviamo agli iscritti al sito Express Yourself oggi sono arrivate con 8 ore di ritardo, ve li consegniamo a mano. Praticamente all'inizio della trasmissione. Veniamo a casa vostra e vi diciamo di che cosa vogliamo parlare, vi telefoniamo. No, scherzo, però se il problema problema si prosegue nei prossimi giorni, insomma cercheremo strade alternative. Comunque tenete d'occhio, se vi interessa discutere di queste cose, tenete d'occhio entrambi i siti, sia Express Yourself che Jefferson 2. Abbiamo messo su Express Yourself naturalmente il tema di Cuba, l'abbiamo chiamato Cuba Last Minute. Vi salto la premessa perché il tempo è poco. Vi abbiamo chiesto un giudizio sulla politica di apertura di Obama verso Cuba e quali siano a vostro parere i passi successivi da fare da una parte e dall'altra. E allora, nonostante i problemi e le pastoie di Facebook, sono arrivati messaggi interessanti da diverse angolazioni. Per esempio Ivan non ha dubbi, l'impero occidentale, l'impero americano sta tramontando definitivamente, dice: gli Stati Uniti devono capire che hanno ormai perso quel ruolo di centralità politica che detenevano sino a qualche anno fa, e dunque secondo Ivan gli ultimi atteggiamenti di Obama vanno in questa direzione. Poi c'è Alessandro invece che ha un bellissimo sogno cubano-americano: Obama e Castro che si incontrano per commentare l'opera politica del poeta José Martí, cioè il grande eroe nazionale cubano. Adlai, le strategie, bella questa, sì, molto, molto poetico, le strategie della nuova amministrazione americana in tema di politica estera hanno un tono affatto imperialistico, quindi non imperialistico, il che mi riempie di curiosità per questo grande paese che fino ad ora, pur essendo un cittadino occidentale, ho sempre snobbato. E poi abbiamo Stefano: la politica di apertura verso Cuba è di certo un segnale positivo, devo dire che tutto sommato piace ai nostri ascoltatori l'atteggiamento di apertura di Obama nei confronti di Chavez, come si dice correttamente, e Obama, e Stefano però dice: di sicuro non si può pensare di cancellare più di 40 anni di simil guerra fredda, poi non tanto simil per la verità, con un semplice colpo di spugna. A proposito di letteratura, c'è anche la storia, forse l'avete notata, del libro, no? Che Chavez ha regalato a Obama e che Obama, su cui Obama ha fatto una piccola gaffe, pensava fosse un libro scritto dal presidente venezuelano, solo dopo ha capito che in realtà era il saggio di Eduardo Galeano intitolato Le vene aperte dell'America Latina, che non appena è stato reso noto, insomma, di questo omaggio dal presidente venezuelano a quello americano, ha fatto un salto pazzesco nelle vendite su Amazon, su più importante. Migliore pubblicità non poteva avere. È balzato dalla 47esima, dal fondo della classifica. Dal fondo. Al 31esimo posto, insomma, è andato molto bene. Mi ha fatto un bel favore. Torniamo a Cuba, Last Minute. Vincenzo, tanti anni di chiusura da parte degli Stati Uniti non hanno portato alcun risultato se non quello di rafforzare il governo cubano. Mukeba dice: personalmente tutte queste aperture mi lasciano perplesso ma fiducioso. La crisi e l'avvicinamento della Cina nel giardino di casa spingono gli Stati Uniti a cambiare la loro politica e a farlo in fretta. Massimo dice: aprire a dei paesi governati da dittatori non so quanto sia dovuto o meno, potrò sembrare cinico ma per me Obama sta ancora in campagna elettorale. E allora c'è Cristiano invece che la vede bene, dice: credo che questa crisi ed il governo di Obama con tutte le sue aperture siano un'occasione per il popolo cubano e per i suoi leader, un'occasione in particolare specifica a Cristiano per democratizzare il paese senza un trauma come è avvenuto in altre nazioni. E poi c'è Andrea che dice: non posso che giudicare positivamente la politica di apertura di Obama, certo che se gli Stati Uniti avessero sanzioni economiche con tutti i paesi dell'America e del mondo che non rispettano le libertà individuali, puntini puntini di sospensione, dove andremmo? Ce n'erano altri, ma arriva Vivian a dire che si chiude, cito almeno Matilde: i segnali di apertura sono ben accetti, spero che Cuba possa subire un processo di democratizzazione, solo che temo che con i signori Castro al massimo si possa assistere a qualche concessione da parte del monarca. E segnalo anche a margine di questa puntata frenetica che il 22 maggio esce in Italia il film premio Oscar 2008 come miglior documentario, che proprio di torture parla, si intitola Taxi to the Dark Side, racconta di un giovane tassista afghano che carica 3 passeggeri il 1 dicembre 2002 e torna a casa diversi anni dopo, finendo in un terribile incubo, no? Una specie di versione estrema di detenuto, ti ricordi? In attesa del giudizio che hanno fatto ieri in televisione, tra versione terrorismo. Allora ho fatto il 13. Credo fosse sulla 7, sì. C'è una coincidenza. Jefferson 2, l'arte della svolta. Io sono Stefano Pistolini, in redazione Milano Enrico, in regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Fabio Cantadori. Jefferson 2 è radio24.it. Dei problemi di Facebook vi abbiamo detto, le nostre pagine sono redazione Jefferson 2 e Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself. Tenetele d'occhio tutte e due se volete partecipare ai nostri focus, e vediamo poi cosa succede nelle prossime ore. Programma in replica a mezzanotte, in podcast sul sito della radio, in diretta alle 4, attorno alle 4, qui su Radio 24. Ci risentiamo. Bye-bye.